Fare tutta la... Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta sabato sera in compagnia di Fulvio. Fulvio. Andrea e Matteo. Fulvio, Andrea e Matteo. Chi è Andrea? Chi è Matteo? Andrea. Ruolo Fulvio, che ruolo ha lui? Non lo so, l'ho conosciuto questa sera. Ah, l'hai conosciuto adesso? Ah, proprio. Trovati in autogrill. Matteo è amico e Andrea è conosciuto questa sera. Ah, ok, ok. Mentre tu sei apicoltore, giusto? Io sono apicoltore, esatto. Ok, è per quello che ti hanno vestito da petta? Mi hanno vestito da petta, da ape regina. E voi siete in ape tour, giusto? Sì, noi siamo in ape tour. Fantastici. Secondo, questi sono vostri, no? No, non sono nostri. Ah, ok, ok. Loro. A loro, quelli, quello con la faccia da cane bastonato, praticamente, vostro? Sì, esatto. Perché è così triste? Gli è andata male? No, no, gli ultimi. All'amoroso anche un pochino triste. Quindi Perché sei triste? C'è l'amorosa triste? Sei triste. Ma e come mai c'è l'amorosa triste, ragazzi? Lui è cattivo. Non vuole andare a convivere, vogliono sposarsi, ma non vogliono sposarsi. Ah, queste storie un po'... complicate. Quindi lei lo sta costringendo, in pratica? Lo sta costringendo a una vita costretta e convivente. Una vita costretta, fantastico. Allora, invece te, come hai fatto a chiedere di sposarti? Cioè, come hai fatto a... Raccontaci. Dai, ero in Madagascar, ero su un'isola. Dove? Davanti al mare. E ho detto, dai, sposati. Dai, così l'hai costretta. Così aggressivo. Cioè, è aggressivissimo proprio. Attenzione. Ammanettata, ragazzi. Ragazzi, beviamo dopo, no? Se non fossi stato io a chiederlo, l'avrebbe chiesto lei a... Per cui avevo... Siamo sicuri? Lui è padrone della Dobbiamo situazione. Dobbiamo chiedere anche lei, Si vede, è padronissimo della situazione. Siamo sicuri, scendi un po' nei dettagli, per favore. Bravo. Scendi nei dettagli. Vogliamo un'atmosfera. Atmosfera. Mare che ondeggia e... Aspetta, creiamo l'atmosfera? Volete? Vai. Facci sentire qualcosa di... C'è il mare... Perfetto. Lungo la spiaggia, dopo una buona cena, dopo una bellissima giornata al sole nelle spiagge del Madagascar. Il giorno dopo sarebbe stato il suo compleanno. Ti voglio. Fulvio si avvicina. Mi avvicino. Come sei bello. Mi inginocchio, tiro fuori la scatolina, a me nemica, la apro, la giro perché non capisci bene da che parte si apre questa scatolina con il granello. Ti inginocchi e dici, Zette, vuoi sposare? Vuoi essere mia moglie? Sì, lo voglio. E lei ha detto sì, lo voglio, dai. Bravo, applausi. Grazie, una cosa fantastica, una roba bellissima. Sono stati momenti toccanti e torniamo tra noi, ecco. Beh, vi siete sentiti immersi in questa atmosfera? Io sono commosso. Infatti lo vedo, sto piangendo, tuo amico. Alla congiuntivite. Alla congiuntivite. Dai, Master Nick, facci ballare questa sera. Come fai a conoscere Master Nick? Quello è il nostro collega. Adesso questa è, no, ce l'ha con te. Ah, ti ha ascoltato? Volevo io l'anello. Esatto, volevo quella ragazza ha sentito il racconto del Madagascar. Sto piangendo. Cazzo, ho sbagliato per sé. Hai sbagliato. Colpo di scena, non era lei che volevi. bellissimo, è stato molto bello, molto bello, molto toccante questa cosa. È stato toccante per voi, ragazzi? Assolutamente. Ti ho toccato? Mi stai toccando pure adesso, penso anche adesso. Mi sento perfetto, siamo tutti... Andrea, ti tocca un pochino anche te, okay. E via questa serata. È importante che ci tocchiamo tutti in questa maniera. Va bene, ragazzi, sono già 5 minuti che stiamo parlando, non vi siete accorti di questa cosa, però è stato bello. Il tempo scorre. Il tempo scorre, il tempo fugge e adesso dovete andare a cantare, tra l'altro, perché i vostri amici stanno facendo la coda là. Quindi salutiamo il nostro amico Fulvio. Andrea, ricordatevi di me. Da dove, ragazzi? Da Valtellina. Ah, da Valtellina. Urbigno. Ok, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Non voglio lasciarvi, dai.